notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io non ho capito, ma è una cosa a volta. Io sono sindaco adesso, nel pieno delle mie funzioni. Può essere fra 24 ore sarò sindaco sospeso. La prima cosa è farò, ma che piano un caffè sospeso. Poi vediamo. Per solidarietà col caffè, quando mi... Effettivamente, cara ascoltatrice, cara ascoltatore, De Magistris era lui, Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, e poi è stato un po' suo malgrado solidale con il caffè sospeso, come si usa molto a Napoli, no? Uno paga il caffè, un doppio caffè, prende il suo e poi lascia lì i soldi perché qualcun altro che non se lo può permettere lo beva. Dicevo, è stato suo malgrado solidale perché il prefetto alla fine, dopo questo braccio di ferro dei giorni scorsi, tra il sindaco da una parte e dall'altra i magistrati, il governo, eccetera, è stato sospeso. Sapete che ha avuto una condanna a 15 mesi per abuso d'ufficio. Lui non vuole mollare la poltrona di sindaco. Dall'altra parte invece Alfano ha detto, ha ingiunto al prefetto di Napoli di firmare il documento per sollevarlo da questo incarico, e così è stato in serata. Quindi insomma diciamo che De Magistris si accompagna a questo caffè sospeso, anche se non mi giunge notizia al momento che effettivamente lui se ne sia andato, insomma, dall'ufficio e dal suo ruolo di sindaco, e pare che comunque questa sospensione sia di 18 mesi, come prevede la legge Severino, in caso di candidabilità, in caso di condanna, in questo caso di primo grado. Poi magari se abbiamo occasione vi aggiorno con le agenzie, che le notizie che arrivano man mano. Però protagonista di questa sera è sicuramente, di questa puntata di questa sera, ancora in parte il TFR. Ho visto molta attenzione da parte vostra con i messaggi che vi ricordo possono andare sia al 349 238 6666 SMS, sia alla pagina Facebook di Effetto Notte, su quanto ritenete che possa essere un rischio o un'opportunità avere parte del TFR in busta paga, così come sta ipotizzando il governo. Quindi ci sarà anche un esperto, se volete fare domande approfittate già prima che io finisca questa prima parte di Effetto Notte. Intanto vi riassumo la giornata. Crisi economica, il ministro Padoan avverte: o ci si muove con decisione o la società è a rischio. La Francia si ribella all'austerity, ma arriva l'altro là della Merkel che ribadisce: prima fate i compiti. Napoli, dopo il braccio di ferro di qualche giorno, sospeso dal sindaco Luigi De Magistris. Hong Kong, mentre proseguono le manifestazioni di protesta, Pechino torna ad ammonire gli Stati Uniti, dice: è una questione che riguarda solo la Cina. Fisco, Italia paese di evasori fiscali, 91 miliardi l'anno sottratti all'erario, boom di irregolarità tra le imprese. Natalità, la crisi svuota le culle, nascite al minimo storico, ogni anno persi 62.000 nati, tra gli ultimi in Europa siamo. Costa Concordia, la verità di Dominca in TV, Schettino rivela la ballerina moldava consegnò un pacco a un elicottero, ma il comandante De Falco commenta: è da non considerare. Calcio, dopo il pareggio della Roma in Inghilterra, in campo tocca alla Juventus in Champions League questa sera contro l'Atletico Madrid. Partiamo quindi dall'allarme, in realtà ce n'è uno al giorno, anche più di uno al giorno, lanciato dal ministro dell'economia Padoan sulla situazione dell'Italia. Ha detto: occorre muovere con decisione su più fronti, nella consapevolezza che in assenza di una ripresa robusta la tenuta del tessuto produttivo e sociale risulterebbe a rischio, la ricchezza delle famiglie minacciata, le prospettive dei giovani compromesse. Questo lo scrive nero su bianco il ministro Padoan nella nota di aggiornamento del DEF, del documento di economia e finanza. Nel frattempo uno scontro su questioni di crisi, di austerità, eccetera, si sta consumando pubblicamente in queste ore tra Francia e Germania, appunto sull'austerità. In soccorso di Berlino intanto arriva il presidente dell'Eurogruppo. Il giorno dopo il rinvio del pareggio strutturale di bilancio al 2017 da parte dell'Italia, tocca alla Francia alzare la voce in modo esplicito contro il dogma dell'austerità. Nous refusons l'austérité. Non chiederemo ulteriori sforzi ai francesi. Il governo adotta la serietà di bilancio per rilanciare il paese, ma rifiuta l'austerità. Ha scandito in una sfida esplicita alla Merkel e all'ala rigorista di Bruxelles il ministro delle finanze transalpino Michel Sapin. Sapin ha confermato il ritocco a rialzo delle stime del rapporto deficit-PIL al 4,4% nel 2014 e al 4,3% nel 2015, col passaggio sotto il 3% solo a fine 2017. A stretto giro di posta la replica della Merkel: non siamo ancora al punto in cui si possa dire che la crisi è alle spalle, i paesi devono fare i compiti per il proprio benessere, ha aggiunto la cancelliera, ricordando che il patto di stabilità e crescita si chiama così perché non può esserci crescita sostenibile senza finanze solide. In soccorso della Merkel il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem: la Francia deve lavorare più duramente perché deve rispettare le regole del patto, riguadagnare competitività e rendere flessibile il mercato del lavoro. Da Dijsselbloem anche l'affondo: Parigi ha avuto 2 anni in più, quando a noi in Olanda ne è stato concesso uno solo. Lo scontro insomma si inasprisce alla vigilia della presentazione delle finanziarie nazionali nazionali a Bruxelles. In queste settimane, con l'insediamento della nuova Commissione europea, si giocherà la partita cruciale sulla direzione che prenderà la politica economica continentale, col derby tra rigoristi e flessibilisti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Uno scontro invece tutto italiano, ma in realtà con dei riverberi internazionali, è quello che si è consumato a Napoli, come vi dicevo, dal sindaco De Magistris, condannato per abuso d'ufficio a 15 mesi di reclusione nell'ambito dell'inchiesta Why Not, da una parte, lui dall'altra, il governo, nei giorni scorsi anche i magistrati. Un De Magistris a cui da più parti si chiedevano le dimissioni, piuttosto isolato è rimasto nelle ultime ore, ma che ha continuato a rifiutare in questi giorni, attaccando sia i magistrati, in parte il governo. Poi in serata il prefetto di Napoli, Francesco Musolino, ha firmato il provvedimento di sospensione del sindaco. La misura sarà notificata al presidente del Consiglio Comunale domani mattina. E la decisione di procedere alla sospensione del sindaco per la condanna che vi dicevo è arrivata, anche se non inaspettata, proprio nelle ore, fra l'altro, in cui il capoluogo, in cui Napoli, ospita i banchieri della Banca Centrale Europea. Insomma, non è sicuramente un bel biglietto da visita. E poi un tema costantemente in primissimo piano è sempre il Jobs Act, sempre più in stallo in Senato. Il governo pensa alla fiducia per portare a casa il primo sì entro l'8 ottobre per il vertice europeo, ma il ministro del lavoro Poletti non si sbilancia sull'articolo 18, dice non si sa ancora se ci sarà un emendamento sul reintegro per licenziamenti discriminatori e disciplinari. Dalla minoranza si chiede chiarezza, no a un ordine del giorno. Intanto Elisabetta Fiorito ha intervistato l'ex segretario PD Bersani. Il punto di fondo è che con qualsiasi strumento si abbia chiarezza di come sarà il decreto delegato, perché su un tema così delicato non possiamo lasciare nell'inconoscibile quello che avverrà, non lasciare settimane e mesi nell'incertezza. Quindi vedranno i senatori, francamente. Ecco, ma che farete però? Non farete cadere il governo? Ma per l'amor di Dio, ma qui siamo leali, non ci spieghino come, non ci spieghino per favore come ci si comporta in una ditta, con i neofiti. Noi combattiamo fino alla fine, dopodiché sia leali, no? Ma invece sul TFR anche i sindacati hanno detto no al TFR in busta paga. Ma sono temi delicati che andrebbero affrontati con molta attenzione, cautela e riflessione, a partire da un fatto di fondo. Stiamo parlando di soldi dei lavoratori e quindi la prima chiacchiera la si fa con i rappresentanti dei lavoratori, no? E adesso parliamo un altro fronte che affrontiamo, un altro fronte aperto, è quello sul TFR. Vi dicevo, tra poco ci sarà un esperto qui in collegamento effetto note, quindi approfittate per le vostre opinioni, per le vostre domande. Sono contrari i sindacati, per Susanna Camusso della CGIL non stanno aumentando i salari ma sono i soldi dei lavoratori, critica anche Anna Maria Furlan della CISL. Secondo la CGIA di Mestre, poi col 50% del TFR in busta paga potrebbe costare alle piccole imprese un importo annuo tra 3.000 e i 30.000 euro. No anche del Movimento 5 Stelle, mentre Forza Italia avverte se cambia la delega non la votiamo. E occupiamoci anche di evasione fiscale, ammonta mediamente a 91 miliardi l'anno l'importo delle principali imposte evase. La stima di cosiddetto tax gap è contenuta nel rapporto sull'evasione fiscale che il ministro dell'economia Padoan ha illustrato al Consiglio dei Ministri. Nel rapporto si dice l'efficacia della strategia di contrasto all'evasione fiscale passa sicuramente attraverso la decisione di non fare più ricorso allo strumento dei condoni. Quante volte si è detto più condoni, mai più condoni. Spostiamoci di nuovo all'estero, mentre proseguono le manifestazioni di piazza per chiedere più democrazia e per spingere l'attuale governatore dell'isola alle dimissioni, arriva ancora un monito da Pechino. Le manifestazioni a Hong Kong riguardano gli affari interni della Cina, ha affermato oggi a Washington il ministro degli esteri cinese Wang Yi nel corso di un incontro col segretario di Stato americano Kerry. E poi il Medio Oriente, lo status quo tra israeliani e palestinesi deve cambiare, questo l'ha detto il presidente americano Obama incontrando il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu. E intanto in Iraq sono state oltre 1.100 le vittime di atti di terrorismo e di attacchi armati solo nel mese di settembre. A renderlo noto, la missione ONU nel paese, che parla anche di 1.400 feriti all'interno della coalizione internazionale anti-ISIS. Intanto la Turchia si prepara a intervenire. la lotta contro lo Stato islamico e la destituzione del governo di Bashar al-Assad sono la priorità della politica turca nella regione. Così il premier Erdogan ha presentato la mozione che dovrebbe sancire l'intervento delle forze armate turche. Secondo quanto riportato dai media nazionali, il governo di Ankara propone la creazione di una zona cuscinetto sul confine con Siria e Iraq e di una no-fly zone per far fronte all'avanzata dello Stato islamico e dare assistenza ai rifugiati. Il premier turco aveva già chiesto l'istituzione della no-fly zone durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ponendola come premessa necessaria per un maggior coinvolgimento turco nelle operazioni anti-ISIS. La Turchia, quindi, che in un primo momento aveva annunciato la propria estraneità alle operazioni militari contro i jihadisti, è pronta ad intervenire. Una radicale inversione di tendenza resa possibile dalla liberazione dei 46 ostaggi turchi nelle mani dell'ISIS, avvenuta lo scorso 20 settembre. La mozione verrà votata domani in Parlamento e potrebbe segnare l'ingresso della Turchia nel conflitto. Si tratterebbe quindi del secondo intervento militare del paese nell'area dopo la sua adesione alla coalizione di volenterosi nella guerra in Iraq del 2003. Miriam Corgia, 3D24, il Sole 24 Ore. Ebola, sempre anche questo un tema che genera inquietudine. Un membro dello staff della missione ONU in Liberia è morto contagiato dal virus Ebola negli Stati Uniti e resta in condizioni critiche. L'uomo infettato è ricoverato in un ospedale del Texas e poi si è saputo che avrebbe raggiunto Dallas con un volo dalla Monrovia, da Monrovia, capitale della Liberia, e lo avrebbe portato prima in Europa questo volo, poi a Bruxelles e di lì avrebbe preso un volo per gli Stati Uniti. E intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato altre gravi emergenze sanitarie. Ritorniamo sulle nostre questioni interne. C'è un crollo delle nascite registrato dal Censis. La crisi svuota le nostre culle e se da un lato più di metà degli italiani non conosce i problemi legati all'infertilità, dall'altro, per chi deve affrontare queste patologie, la difficoltà principale è ancora una volta di tipo economico. Lo afferma il rapporto realizzato dal Censis e dalla Fondazione IBSA. Chi invece dichiara di conoscere il problema dell'infertilità, ossia il 40%, ammette che non sono poche le difficoltà da affrontare in tema di procreazione medicalmente assistita. E se la maggioranza degli italiani, ossia l'85%, è favorevole all'inseminazione omologa in vivo e il 73% alla fecondazione omologa in vitro, sulla fecondazione eterologa gli italiani sono divisi. Secondo il Censis è d'accordo sull'uso di gameti esterni alla coppia il 40% degli italiani, percentuale che scende però al 30% tra i cattolici praticanti, mentre sale al 65% tra i non credenti. L'informazione risulta comunque nel complesso piuttosto carente, dato che solo l'11% del campione ha affermato di sapere che in Italia esiste una legge, la legge 40, che regola la procreazione medicalmente assistita. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi ci faremo un po' interpretare questi dati da una delle maggiori sociologhe in Italia più tardi. Adesso però spostiamoci su cose più leggere, sulla TV e una delle serie televisive più premiate nella stagione negli Stati Uniti. Ora finalmente arriva anche in Italia. Una serie da 5 Emmy, Woody Harrelson e Matthew McConaughey sono i protagonisti di True Detective. È la messa in scena di una fantasia. Il suo corpo è una mappa d'amore parafiliaco. Che sarebbe? Un collegamento tra passione carnale, fantasie e pratiche vietate dalla società. Nel 1995 Marty Hart e Rust Cole si trovano alle prese con un misterioso omicidio nelle paludi della Louisiana e ritornano sul caso 17 anni dopo, quando l'indagine viene riaperta. True Detective è stata scritta dal romanziere Nick Pizzolatto, girata su pellicola in 35 mm come un film, al marchio di qualità del canale HBO, che ha commissionato anche una seconda stagione. In Italia i due protagonisti hanno le voci di Pino Insegno e Adriano Giannini. La migliore serie girata negli ultimi 20 anni, io mi ricordo solo Twin Peaks, che era 20 anni fa, sconvolse il mondo della televisione e della serialità. E poi sembra un'idea molto semplice, dove ci sono due detective che inseguono un serial killer, ma dietro questo c'è una storia di due uomini, una storia d'amicizia, una storia di vita incredibile. Le prime due puntate di True Detective andranno in onda il 3 ottobre su Sky Atlantic e il 5 in chiaro su Cielo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora è il momento della Champions League, il momento anche di Dario Ricci. Dopo la Roma di ieri che ha pareggiato, che farà la Juventus questa sera, Dario? Non ho la palla di vetro, non so ancora Scramo dirtelo tu. Roberta, però rimanendo alla stretta cronaca, possiamo dire che siamo al 28esimo di gioco al Vicente Calderón di Madrid ed è ancora 0-0 tra Atletico e Juventus. Finora partita vivace ma molto tattica, le due squadre rimangono molto corte, si prestano a vicenda, poche occasioni, la più nitida pochi istanti fa, al 25esimo, con Mandzukic, il centravanti croato dell'Atletico, che ha calciato da circa 20 metri. Bravo Buffon a non farsi sorprendere. Juventus finora poco pungente in avanti e che colpisce soprattutto per la terza maglia, verde fosforescente, a dir poco discutibile. Un rapidissimo sguardo anche agli altri risultati: l'Arsenal in vantaggio sul Galatasaray per 1-0, 1-1 tra i bulgari del Lugodorez e Real Madrid, il Borussia Dortmund in vantaggio a Bruxelles sull'Anderlecht, ancora in gol il nostro Ciro Immobile. E dopo ci aggiorniamo con Dario Ricci. Intanto mi aggiorno brevemente, prima di aggiornare chi sta viaggiando, con i vostri messaggi. C'è Clotilde che va sulla questione dei magistris e dice: certo che detto Di Alfano che si deve dimettere, che l'hanno sospeso ormai, sa tanto di ridicolo. Io sto con De Magistris perché ho seguito, dice, tutta la vicenda a partire da Catanzaro, cioè dalla famosa inchiesta Why Not. Dice: non deve mollare De Magistris. Però concentratevi anche molto, se volete, sulla questione del TFR, tra poco ne parleremo con un esperto. Quindi se avete delle opinioni da esprimere, delle domande da fare, dovete approfittarne adesso. Per esempio Emilio scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: è evidente, stanno proprio raschiando il barile, il fondo del barile, PS il barile in questione è quello dei più deboli. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci subito qui. Allora, stiamo per parlare in modo specifico di TFR con un economista tra poco, quindi vedo cominciano ad arrivare i vostri messaggi. Continuate a scriverli sia gli SMS che sulla pagina Facebook di Effetto Note. Io vi riassumo brevemente, se avete acceso la radio in questo momento o se avete voglia di risentirle, così in due parole le notizie più importanti della giornata. Napolitano che dice alla BCE: la priorità è la crescita, l'Italia ce la farà. Intanto la Francia si ribella all'austerity con la Merkel che replica: faccia prima i compiti. Sul Jobs Act scontro sulle modifiche, ma Bersani giura però lealtà al Partito Democratico. Tanti no intanto al TFR in busta paga, da più parti viene fatta la richiesta di ridurre piuttosto le tasse sul lavoro. E poi arriva la sospensione per De Magistris, il sindaco la ignora e dice che, come avete sentito, insomma, sarà più facilmente per strada se proprio dovesse andarsene dal ruolo di sindaco. E poi la verità di Dominca: Schettino consegnò, dice, un pacco o un elicottero. Sono le rivelazioni della ballerina moldava che era con Schettino la notte del naufragio, l'ha detta in TV, mentre il comandante De Falco commenta: sono cose da non considerare. Poi per il calcio abbiamo sentito che c'è la Juventus in Champions League, per il momento 0-0 con l'Atletico Madrid. Quindi dicevamo del governo che starebbe studiando con grande insistenza e anche convinzione di Renzi, sta studiando la possibilità di trasferire una parte del TFR, cioè del trattamento di fine rapporto, in busta paga. Mi pare che ci sia molto scetticismo, visto in questi giorni i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666. Gli stessi sindacati frenano molto, la CGIL con la Camusso, Angeletti della UIL, ma anche Furlan, poi magari la sentiremo anche, che dice che non è una scelta molto opportuna. E c'è per esempio Bersani, anche lo avete sentito nella parte del GR, che dice: questi sono soldi dei lavoratori, quindi bisogna discuterne con i lavoratori, si rischia di erodere, dice, in questo modo ci si mangia oggi le risorse di domani. Poi c'è l'ex ministro Treu, che oggi è neocommissario straordinario dell'INPS, che dice: sulla questione dell'anticipo TFR in busta paga credo che ci siano sia pro che contro. In un momento come questo avere qualche soldo in più in busta paga può rappresentare un incentivo ai consumi, ma di contro il TFR dovrebbe servire a rimpinguare la pensione, ma così non assolverebbe più a questa funzione. Insomma, sembra che appunto che ci sia molto scetticismo. E allora vorrei chiedere cosa ne pensa. Mi sembra una delle poche forse persone che trovano molte opportunità in questa possibile scelta. Vorrei coinvolgere Stefano Patriarca, che saluto, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Economista della Voce Info ed esperto in politiche economiche, del lavoro e del welfare. Lei dice certo che ci sono rischi e opportunità, ma mi sembra che sia più così propenso a ritenere che ci siano in particolare delle opportunità su questa cosa del TFR. Sì, io penso esattamente che le opportunità siano più alte dei rischi. Questa è una proposta che io anche avevo avanzato nel passato, ma addirittura la CGIL molti anni fa, quando si parlava di riforma del salario, aveva ipotizzato questa scomparsa di un residuo un po' vecchio, ecco, della struttura del salario. Anche, però oggi parliamo di una cosa precisa. Ora occorre sempre vedere quali saranno, come dire, i dettagli tecnici, perché appunto poi il diavolo sta nei dettagli, certo, quindi bisogna vedere come sarà fatta. Però io ho fatto un'ipotesi. Supponiamo che fosse data la possibilità a tutti i lavoratori italiani di averlo, di scegliere. Quindi di scegliere, ecco, la libertà di scelta. Se paga o meno, ecco, questo è l'ipotesi. Quindi non c'è niente, non dovrebbe essere niente di coattivo. Anche se fosse coattivo, insomma, poi uno può sempre decidere di rimetterlo sulla previdenza integrativa, di risparmiarlo, di fare quello che vuole. Comunque, a mio avviso, sarebbe importante dare una possibilità. Questo TFR che cos'è oggi? In realtà è un credito che hanno i lavoratori nei confronti dell'impresa e che riscuoteranno quando andranno via dall'impresa. Bene, ogni anno l'impresa accumula, oppure già lo versa all'INPS e quindi è l'INPS che accumula. E poi verrà restituito quando finiranno di lavorare, o perché andranno in pensione o perché cambiano posto di lavoro. Ecco, questa è una forma di risparmio coatto, diciamo così, no? Ecco. La questione è questa: in questo periodo è probabile che molti lavoratori preferiscano avere una quantità, come dire, anticipata piuttosto che diluita nel tempo. Anche perché magari le condizioni personali sono specifiche, magari perché uno ha una prospettiva pensionistica buona, o perché appunto in futuro avrà una casa in eredità, e comunque pensa più al consumo e al reddito attuale, che sta in situazioni, come dire, molto gravi, per cui lasciamo la libertà. Questo però avrebbe molti effetti. Per le imprese non cambierebbe niente se si facesse in questo modo. Supponiamo che le imprese, dire, perché le imprese, lei sa, che paiono decisamente contrarie dalle varie opinioni che ho visto negli ultimi giorni, soprattutto le piccole e medie imprese. Ovviamente sì, se le piccole e medie imprese, se si dice trasferiamolo in busta paga, come dire, facendo dare questa liquidità dalle imprese, questo è un problema. Ma se questa liquidità fosse anticipata non dalle imprese, ma dalle banche, d'accordo, dal sistema finanziario, per le imprese non cambierebbe assolutamente niente, continuerebbero a fare l'accantonamento in bilancio oppure a darlo all'INPS per le imprese che sono obbligate a versarlo, e non cambierebbe nulla. L'unica cosa che cambierebbe è che quando alla fine del rapporto di lavoro le imprese dovrebbero pagare il TFR, invece di darlo al lavoratore lo restituirebbero alla banca che ha anticipato, come dire, il finanziamento. Però, professor Patriarca, vedo molte obiezioni da parte degli ascoltatori e ascoltatrici su questo aspetto in particolare, e dicono già le banche si sono mostrate molto avare negli ultimi anni, da che è scoppiata la crisi, in particolare sul fornire credito, no, alle piccole e medie imprese, ai privati, eccetera. Figuriamoci se si sentono di farlo sul TFR. Ma sicuramente questa è un'obiezione giusta. Ricordiamo che Draghi più volte ha detto e ha strigliato le banche perché non danno i lauti fondi che anche la Banca Centrale Europea mette a disposizione delle banche a tassi molto bassi e non finiscono nelle tasche dei lavoratori o delle imprese. Il problema non è farlo in maniera opzionale. Bisogna costruire un'ipotesi per cui questo tipo di prestito sia in qualche modo obbligatorio, quindi, diciamo. Esatto, obbligatorio. In qualche modo obbligatorio. Certo, ci vuole un'intesa con il sistema bancario, ma guardi, adesso le banche farebbero un prestito attualmente che gli renderebbe il 2,3% l'anno, perché oggi questo è praticamente il tasso di rivalutazione del TFR, a fronte di una provvista fondi che fanno presso la BCE dello 0,5%. E è un prestito per di più garantito al 100%, perché esiste presso l'INPS un fondo assicurativo che viene pagato con un contributo da parte delle imprese, attualmente già esiste, che garantisce che nel caso in cui un'impresa non paghi, d'accordo, c'è il pagamento da parte dell'INPS. Quindi è un prestito garantito, senza rischi, ad un tasso di assoluto rispetto, d'accordo, per cui per le imprese, infatti le banche mi pare che si siano espresse in maniera possibilista su questa ipotesi. Professore, c'è fra gli altri ascoltatori, per esempio Alessandro, che scrive se non esiste già una norma per cui un dipendente può chiedere un anticipo del TFR in casi particolari, mutui, spese mediche, eccetera. Quindi dice esiste già questa norma. No, però esiste solamente in casi molto particolari. cioè in caso di acquisto della prima casa e in caso di malattie gravi. Però attenzione, questo è, come dire, legato al fatto che questo anticipo l'impresa lo può dare fino a un certo ammontare del complesso del TFR accumulato, quindi in realtà i casi sono molto molto ristretti, insomma è in caso del tutto eccezionale, ma perché non è una causa valida per anticipare questo finanziamento una difficoltà finanziaria immediata, una disoccupazione che arriva in famiglia, d'accordo? Un figlio che non riesce appunto a trovare lavoro, oppure tante altre cause. Io non dico che occorre fare un'operazione coatta, cioè tutti quanti. Quindi dice libertà di scelta. Ma lasciamo la libertà di scelta, perché questo è un paese che sulle questioni finanziarie, insomma, non è libero. Insomma, pensiamo questo, che se un lavoratore quando viene assunto non si dimentica di fare l'opzione di dove fa il TFR, questo obbligatoriamente confluisce in un fondo pensione, senza che il lavoratore abbia espresso un'opzione implicita. Insomma, sono tutte cose che secondo me limitano una libertà personale, perché consideriamo ancora i consumatori, le famiglie e i lavoratori italiani come una sorta di sottosviluppati che bisogna obbligarli a risparmiare. Professore, cioè, a questo proposito dei fondi pensione, Alessandro scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: volendo fare il pignolo ci risiamo, è un giroconto per chi il conto ce l'ha già e sono la minoranza. La maggioranza dei lavoratori già non ha il TFR e quel che mette da parte ha scarsissima probabilità di vederlo in futuro, perché in pensione non ci arriverà o perché dal fondo in cui li ha messi si volatizzeranno sicuramente prima di riaverli. E qualcun altro anche parla dei fondi pensione, per esempio, vediamo se lo ritrovo. Gianfranco scrive: a me sembra assurdo che si è cercato di convincere gli italiani a vincolarlo nei fondi pensione, ora si vuole convincerli della bontà del fatto di averlo subito. Boh, dice, preso dalla confusione evidentemente. Sì, appunto, insomma, questo è indice anche, insomma, di un qualche smarrimento informativo, no? Che spesso c'è su queste cose. Allora, per quanto riguarda la prima osservazione, ma in realtà oggi appunto non è nella facoltà dei lavoratori appunto di averlo prima. Se qualcuno è preoccupato per il suo futuro previdenziale, può continuare a mantenerlo in un fondo pensioni. Anche qui io ritengo giusta questa osservazione che ha fatto l'ascoltatore, che a pensione c'è stato un obbligo spesso di mandarlo ai fondi pensione. Il risultato peraltro è stato molto discutibile, se pensiamo che il TFR che è andato ai fondi pensione, i fondi pensioni l'hanno investito e gli investimenti dei fondi pensioni italiani oggi sono per il 60% su investimenti all'estero, su titoli del debito pubblico esteri. Insomma, probabilmente è più giusto farli rimanere, come dire, in tasca ai lavoratori e alle imprese italiane, insomma, in linea di massima, dicendo questa è la situazione. Anche qui poi c'è un'altra cosa da sfadare un po', mi consenta, questa cosa che in futuro le pensioni non ci saranno o saranno molto basse e la gran parte dei lavoratori non ci saranno. Adesso in Italia ci sono 17 milioni di lavoratori dipendenti, che siano a termine, che siano a tempo indeterminato, che siano interinali, tutti questi hanno il TFR per diritto, 17 milioni. Il problema riguarda eventualmente i 500.000 collaboratori coordinati e continuativi, d'accordo? Ma è una platea particolare che non ha il TFR, ma stiamo parlando di 17 milioni che ce l'ha, e anche la previdenza in futuro. Non è vero, come dimostrano gli studi appunto prestigiosi anche a livello europeo, che in futuro non ci sarà un rendimento adeguato. Il rendimento adeguato del sistema contributivo potrà garantire il 70% della pensione, 70% della retribuzione in futuro. Certo, mi si dice spesso, ma attenzione, se uno non lavora e non ha reddito, la pensione sarà bassa, giusto? E questa è la realtà del mercato del lavoro italiano, purtroppo. Ma se uno non ha pensione e non ha reddito, non ha neanche la capacità di farsi una previdenza integrativa, d'accordo? Perché magari non c'è neanche il TFR e quel problema lì non lo risolve il sistema pensionistico. Quel problema lo risolve un mercato del lavoro che funzioni bene. Cioè rischiamo, si consenta, di avere un paese ricco di risparmio previdenziale, ricco di promesse previdenziali e povero di redditi, di consumo e di occupazione. Insomma, è uno scenario un po' inquietante. Molto inquietante, professore. Vedo un sacco di domande, ma credo che non avremo tempo perché abbiamo ancora un minuto. Per esempio, penso che abbia già risposto quando un ascoltatore chiede la liquidità per le piccole e medie imprese. Lei ha già parlato dell'ipotesi di obbligare le banche, insomma, a dare il credito. E poi un ascoltatore, invece, ascoltatrice, non si firma, dice: quindi ammortizzatori pagati dalle famiglie con i propri soldi. È un fenomeno, Renzi. Insomma, questo è il parere di alcuni ascoltatori piuttosto diffidenti rispetto a questa scelta. Poi Carlo dice: l'ultima cosa, il mio TFR l'ho versato tutto sul fondo pensione, cosa mi metteranno in busta paga? Riesce a dare proprio sinteticamente una risposta? Sì, sinteticamente io, nella mia ipotesi, poi io non so se questa è quella del governo, quale sarà, nella mia ipotesi quel lavoratore continuerà, sceglierà se averlo indietro, d'accordo, oppure continuare a versare nel fondo. La questione è libertà di scelta. Insomma, un paese che garantisce più libertà economica è anche un paese che forse riesce a crescere un po' meglio. Professore, io intanto ringrazio professor Stefano Patriarca. Grazie. D'accordo, grazie a lei. E buona continuazione. Grazie per questi chiarimenti. Spero anche per le ascoltatrici e ascoltatori un tassello in più per comprendere questa ipotesi. Resta ancora un'ipotesi allo studio del governo. Capiremo più in là. Intanto prendiamoci una pausa. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano, sempre con voi. Stavo leggendo con molto interesse i tanti messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666, anche le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Virgo scrive: non c'è problema del TFR, dal conto corrente passerebbero i soldi direttamente al fondo pensione che già ho, almeno non me li tasserebbero come fanno con il TFR quando te lo danno tassato prima, dopo, durante e alla fine. Col cavolo che li spenderei, già avrò una pensione da miseria, bene che vada dovrò campare di lavoretti e lavorare finché non campo. E poi un altro ascoltatore invece suggerisce: a questo punto diamo ai lavoratori il lordo, poi pagheranno le tasse come fanno gli autonomi. Però adesso vi riassumo le notizie e poi passiamo a un altro fatto importante di oggi. La Francia si ribella all'austerity, ma arriva l'altolà della Merkel che ribadisce: prima fate i compiti. E poi c'è l'allarme per quanto riguarda la crisi economica italiana del ministro Padoan, che avverte: o ci si muove con decisione o la società è a rischio. A Napoli, dopo il braccio di ferro di qualche giorno, è stato sospeso da sindaco Luigi De Magistris. A Hong Kong proseguono le manifestazioni di protesta e Pechino torna ad avvisare gli Stati Uniti: guardate che le manifestazioni sono una questione interna alla Cina. Fisco: Italia paese di evasori fiscali, 91 miliardi l'anno sottratti all'erario. Per la natalità la crisi svuota le culle, nascite al minimo storico, ne parleremo tra pochissimo. E poi per il calcio, non so se ci sono aggiornamenti, ma credo che la Juventus sia sempre 0-0 con l'Atletico Madrid. Quindi dicevamo, si può dire anzi che la crisi ha messo in crisi anche le nascite. Infatti dagli ultimi dati Censis pare che ci sia proprio un crollo delle nascite in Italia. Dall'inizio della crisi economica l'Italia ha perso oltre 62.000 nuovi nati all'anno, pensate, con i motivi economici che almeno nella percezione della gran parte degli italiani sono la causa principale del fenomeno. Questi dati emergono dalla ricerca realizzata appunto dal Censis e dalla fondazione IBSA, presentata oggi a Roma. Il rapporto si chiama Diventare genitori oggi e si è passati da quasi 577.000 nuovi nati del 2008 a poco più di 514.000 del 2013. Questo è il valore più basso da quando si fanno le rilevazioni. E con quest'ultimo calo delle nascite, registrato appunto nel 2013, l'Italia ha raggiunto il fondo della classifica europea per il numero di nuovi nati. Chiara Saraceno, una delle più famose sociologhe in Italia. Ciao Chiara. È anche molto esperta di fenomeni sociali, di famiglia. E allora, secondo questi dati Censis, intanto il Censis fornisce queste cifre e poi anche un sondaggio di opinione tra gli italiani di varie cose, e sulla questione del calo delle nascite la gran parte degli italiani ne sono consapevoli e dicono per il 90%, anzi per l'83%, che è la crisi che rende più difficile la scelta di fare figli. E la percentuale di quelli che hanno questa opinione, di quella che può essere la motivazione di questo calo di nascite, supera il 90% tra i giovani fino a 34 anni, cioè le persone che subiscono maggiormente l'impatto della crisi e sono anche quelle più coinvolte nella eventuale decisione di fare figli, perché naturalmente per una questione di età. Hanno ragione gli italiani a pensare che sia questo il motivo principale, Chiara? In realtà realtà l'Italia è un paese che ha un tasso di fecondità basso già da molti anni, no? Vero, da diversi anni, anzi il punto più basso, perché un tasso di natalità in realtà dipende anche dall'età della popolazione, quindi se siamo una popolazione che invecchia avremo sempre un numero più basso di figli sul totale della popolazione, perché quello di fecondità è pure proprio relativo alle persone in età seconda. E devo dire che il punto più basso era stato raggiunto nel 1996, quindi molto prima, molti anni della fa, crisi. Certo. Poi è un pochino ricresciuto e negli ultimi anni, appunto negli anni della crisi, ha ricominciato a scendere, cioè il piccolo aumento che c'era stato, sempre sotto l'1,5 peraltro, figli per donne. Si è interrotto ed è ricominciata la discesa, che non ha ancora raggiunto i punti del picco del 96, però è in discesa. E la cosa interessante e preoccupante è che anche le donne straniere, che hanno un tasso di fecondità medio più alto delle italiane, non danno più un grande contributo, perché? Sì, anche loro sono in diminuzione, perché anche loro, in parte perché in tutti i paesi gli immigrati tendono ad avere lo stesso modello di natalità degli autoctoni, quindi un po' più alto, ma tende a diventare simile col tempo. E dato che la nostra migrazione non è una migrazione di lungo periodo stanziale, quindi sono donne che per lo più sono qui da parecchio tempo, ma in parte perché anche gli immigrati soffrono una crisi come gli autoctoni, anzi per certi versi di più. Il problema grosso dell'Italia è che è un paese non amichevole nei confronti delle famiglie con figli e delle donne con figli. Che ci sono, il problema è duplice: da un lato che abbiamo pochi sostegni, per esempio l'Italia è uno dei paesi in cui non esiste un assegno per i figli, c'è cioè un trasferimento mirato per i figli, c'è qualcosa, ma categoriale, che lascia fuori tante persone e spesso anche le più povere. E quindi chi decide di fare figli riceve in Italia meno sostegni che in altri paesi, anche in termini di trasferimenti. È un paese che investe poco nelle nuove generazioni, in cui la scuola è un luogo dove si può tagliare, i servizi per l'infanzia sono i primi a essere ridotti quando vengono ridotti le politiche sociali e così via. E quindi anche questo aggrava i costi ed è particolarmente non amichevole nei confronti delle donne con figli sul mercato del lavoro. Ma anche a proposito delle dimissioni in bianco, no? Che alcuni datori di lavoro chiedono alle donne nel caso rimanessero incinta, quindi di firmare un foglio che in bianco, dire se rimango incinta mi dimetto, è una cosa che da più parti viene chiesto al governo di inserire, no? Nella riforma del lavoro, nel Jobs Act. In realtà era stata fatto già anche da Fornero, è stata cioè era stata introdotta dal secondo governo Prodi una norma a questo genere, nel senso che si rende più difficile, era stata subito tolta dal governo, dall'ultimo governo Berlusconi, e la ministra Fornero l'aveva reintrodotta in un modo un po' diverso da prima, quindi è un po' più difficile per oggi licenziare, cioè c'è tutta una procedura per cui se una donna dice mi licenzio eccetera, in realtà è fatto un minimo di istruttoria, dopodiché le pressioni possono essere pesanti e quindi, ma il problema è che è difficile combinare, è difficile conciliare, se io esco alle 5 e la scuola di mio figlio, se c'è il tempo pieno, e sono fortunatissima, c'è il tempo pieno, chiude alle 5, come faccio a essere? Diciamo, bisognerebbe cambiare un sistema piuttosto globale, no? Dell'organizzazione sociale, molto, del lavoro. Molto poco amichevole, molto poco amichevole. Si pretende da una parte una maggiore natalità, ma dall'altra non si fa niente, sì, e per le politiche sociali. E poi si aggiunga, che prima si diceva i giovani fino ai 34 anni sono quelli più, che più dicono c'è la crisi, perché sono quelli su cui si è concentrato tutto il precariato, non solo la disoccupazione, ma anche il precariato, e quindi la difficoltà di progettare. Infatti noi vediamo, c'è stato, cioè, lì, mi sembra fosse Linda Laura Sabbadini dell'Istat, sì, qualche anno fa, non l'anno scorso, aveva mostrato come a parità di età, quindi nella stessa fascia di età, le donne che fino ai 34 anni che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato e quelle che hanno un contratto invece precario a tempo determinato eccetera, hanno comportamenti diversissimi. Le prime più facilmente sono già fuori dalla famiglia d'origine, sono già più spesso in coppia, più spesso hanno un figlio. Le seconde invece sono ancora più spesso in casa, coi genitori, non in un rapporto inevitabilmente, di inevitabilmente, e non hanno figli. Certo. Chiara, quindi vale per i maschi, ma ancora più per le donne. Chiara Saraceno, ci sarebbe tantissime da dire ancora, però il tempo stringe, avremo modo di risentirci su un argomento che al momento è proprio in una fase di stallo, anzi di diminuzione. Grazie Chiara Saraceno, c'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie ve ne ho raccontate molto, molte adesso, ma in particolare c'è questa che riguarda appunto De Magistris sospeso da sindaco di Napoli. La giunta si è riunita, la giunta di Napoli, e ha espresso piena fiducia al sindaco. Questa è l'ultima notizia importante che è arrivata in giornata. Adesso lo spazio europeo. Europa 24 notte. Parliamo di candidati alla Commissione Europea. Il candidato al portafoglio dell'educazione Tibor Navracsics si è presentato, ungherese, oggi pomeriggio alla Commissione Cultura del Parlamento Europeo, giocandosi subito la carta dell'europeismo. Ha risposto alle domande dei parlamentari difendendo la libertà di stampa e il ruolo di università e ricerca nelle politiche di governo europeo. Il 22 ottobre si saprà se verrà confermato, ci sono molte polemiche intorno a lui perché di idee di estrema destra, come commissario per l'educazione, la cultura e i giovani. L'Unione Europea e l'Ungheria sono unite dagli stessi valori, come la difesa della dignità umana, dell'uguaglianza, della libertà, della democrazia e dello Stato di diritto. Essere commissario vuol dire essere un impegnato europeista, rappresentare e servire i cittadini europei. In passato, tra Unione Europea e Ungheria ci sono stati dissapori, ma abbiamo sempre dialogato in modo democratico e pacifico. Sarò il guardiano del trattato. Il candidato al portafoglio dell'educazione, Tibor Navracsics, si è presentato oggi pomeriggio alla Commissione Cultura del Parlamento Europeo di Bruxelles, giocandosi subito la carta dell'europeismo, ripetendo in più occasioni la sua aderenza ai valori democratici dell'Europa, con un discorso molto politically correct, anticipando tutti i temi su cui è stato contestato nelle settimane scorse. Navracsics si è presentato ai deputati con una difesa della democrazia europea necessaria, dal momento che il candidato ungherese è il commissario che più di tutti rischia la bocciatura per il fatto di essere un fedelissimo del controverso presidente dell'Ungheria Viktor Orban e per aver preso parte al progetto della nuova costruzione del paese riscritta in senso illiberale. Navracsics ha risposto alle 45 domande dei membri delle tre commissioni riunite, cultura, industria, ricerca e energia, cercando di convincerli di essere il candidato ideale per ricoprire il ruolo di commissario per l'educazione, la cultura e i giovani, ma soprattutto cercando di rassicurare i membri del Parlamento di aderire ai principi e ai diritti sanciti dal Trattato e di essere di visione aperta e competente in materia di politiche culturali, definendosi appunto il guardiano del Trattato. Navracsics abilmente ha toccato tutte le corde del dibattito sulla cultura e sulla formazione, ribadendo l'obiettivo della lotta alla disoccupazione giovanile e il ruolo centrale che devono avere ricerca e università nelle politiche di governo europeo. La formazione, ha detto, deve essere il cuore dei progetti europei, della sua azione a favore della crescita e lo sviluppo. Per questo voglio che le università europee siano le migliori al mondo, sono il pilastro delle nostre società. Le garanzie di apertura, libertà e democrazia sono state chieste in prima persona anche dalla Presidente della Commissione Cultura Silvia Costa e quanto detto da Navracsics dovrà bastare per fugare le preoccupazioni e i richiami arrivati da molti cittadini e associazioni a non appoggiare la candidatura di Tibor Navracsics, che per molti non soddisferebbe tutti i requisiti in termini di democrazia, rispetto delle minoranze e libertà dei media. Sono un fermo sostenitore della libertà di stampa e espressione, ha detto rispondendo alle molte domande che l'hanno pressato sul suo ruolo di ministro della giustizia di un governo che secondo molti osservatori avrebbe fortemente minacciato la libertà di stampa nel suo paese. Per il 48enne avvocato, ex ministro degli affari esteri e del commercio del governo di destra ungherese, nominato miglior professore dell'anno dell'Università di Budapest, il giudizio ora passa nelle mani dei coordinatori che avranno 24 ore di tempo per stabilire una valutazione e, se necessario, inviare altre domande scritte. Se riceverà il via libera, succederà alla cipriota Andrulla Vassilliu dal prossimo 1 novembre. Rientrano nelle sue competenze la Direzione Generale Educazione e Cultura, il Centro Comune di Ricerca, parte dell'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura, nonché svariati programmi su educazione, cultura e cittadinanza, tra cui Erasmus+. L'esito dell'audizione sarà noto il 22 ottobre, quando il Parlamento europeo voterà la nuova Commissione nel suo insieme. Silvia Bernardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ora voce al pallone, il pallone, nel senso, Dario Ricci che ci parla di come sta andando la Champions League per la Juventus. Dario? Sì, sempre di Europa parliamo, no Roberta? Chiaro. Siamo al quinto del secondo tempo, ancora 0-0 al Vicente Calderon tra Atletico Madrid e Juventus, spettacolo che langue in una partita comunque intensa. Avevo detto nel precedente collegamento dell'occasione per Mandzukic al 25esimo sventata da Buffon, c'è stata la risposta bianconera, o meglio verde, visto che la Juventus stasera si schiera con la terza maglia di un verde fosforescente, con Pogba al 32esimo, un destro di poco al lato della porta difesa da Moya. 0-0, ma nell'altra partita del gruppo della Juventus, il gruppo A, il Malmo è in vantaggio per 1-0 sull'Olympiacos. Il risultato quindi è importante. Per gli altri risultati, netto 3-0 dell'Arsenal sul Galatasaray, 2-0 del Bayer Leverkusen sul Benfica, 1-1 tra Ludogorets e Real Madrid e Borussia Dortmund sempre in vantaggio per 1-0 sull'Anderlecht. Grazie caro Dario Ricci, molto esauriente, noi ci sentiamo tra poco.